140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. La musica nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Parole e dintorni, ufficio stampa, Milano. 5 anni fa moriva il cantautore romano Stefano Rosso. Oggi gli dedica un CD il suo allievo e collega Andrea Tarquini. Si intitola Reds. Dunque, l'idea di fare questo progetto stava nell'aria da parecchio tempo. Poi, appunto, la difficoltà di farlo prima ancora che organizzativa, finanziaria, eccetera, eccetera, era veramente personale, perché parliamo di un pezzo di vita, prima di tutto del sottoscritto, perché io con Stefano Rosso ci ho suonato, siamo stati amici, anche con una differenza d'età, quindi quella che può essere un'amicizia tra un signore di 40-50 anni e un ragazzo di 20. Però, quindi, prima di tutto, ecco, io spesso mi hanno chiesto: ma Stefano è morto da 5 anni, come mai solo adesso? Era necessario prima far sedimentare probabilmente alcune cose, e quindi prima di tutto io non sarei probabilmente stato in grado di farlo prima. Quindi prima di tutto c'è stato un fatto personale. Subito dopo è arrivato lo stimolo costante, e devo dire azzeccato, premiante, di Luigi Grechi De Gregori, fratello maggiore di Francesco, e che mi diceva: guarda, tu suoni da tanti anni, sei un buon cantante, eccetera, cosa aspetti a fare sto disco? Insomma, una volta mi disse addirittura: guarda, se non lo fai tu lo farò io. Di precoci adolescenze e di verdi solitarie voluttà, di soprusi e di violenze, e di bello c'era il monte di pietà, di ricoveri e sirene, aeroplani e cieli blu, del bel minatore Bruno che non ritornava più. Ma oggi tutto qui è cambiato, sono rimasti dei ricordi e niente più. Oggi come sono stati arrangiati, io credo che noi abbiamo tentato, e poi ci siamo riusciti, a mantenere un equilibrio assolutamente precario e molto difficile da tenere tra l'innovazione dell'arrangiamento, nel senso che non aveva senso rifarlo uguale, come sai in Italia si confonde spesso la cover con la copia, no? Che è una cosa che va bene quando sei ragazzino e vuoi imparare a suonare come Tizio, Caio o Sempronio, e allora lì ha senso impararsi le frasi esatte di qualcuno famoso. In realtà quando tu devi rifare una cosa, devi metterci del tuo, e quindi però il rischio è quello di essere presuntuosi, perché rischi per esempio di maltrattare una cosa che la mitica RCA aveva fatto in un altro modo. Quindi, come dire, fondamentalmente abbiamo soltanto asciugato, perché alcune sonorità erano particolarmente connotative di quei tempi, e dove magari eravamo più indecisi sul da farsi, abbiamo attinto alla cultura della musica tradizionale nordamericana, che anche Stefano Rosso amava, perché suonava il banjo Stefano, quindi ci è venuto un po' tutto facile, devo dire. E distillando le rassegnazioni a casa mia producevamo sogni, mamma e babbo dirigenti, noi fratelli semplici operai. E una mattina mi svegliai da ragioniere, e affogando il pane dentro al latte cominciai a pensar così: ma chi mi ferma più? Al vicino con la topolino passerò vicino col sorriso in faccia, ma chi mi ferma più? La domenica a mangiare fuori, a chi mi sorpassa le corna farò. All'ombra l'alfabeto al tempo andava, lei che cominciava. Guarda un po' che casa hanno i donati, invece noi col bagno per le scale. E una mattina mi svegliai capitalista e affogando il pane dentro al latte cominciai a pensare così. Stefano Rossi era persona e personaggio straordinario, tra mainstream e uomo che riesce a fuggire nella legione straniera, tra ironia dissacrante e testi estremamente impegnati politicamente. Riuscire a sintetizzare le due cose e far trasparire l'anima di Stefano Rosso in un disco solo non è stato facile. Guarda, intanto questa della legione straniera è veramente l'unica cosa che, alla quale io non so mai rispondere, perché non so niente di questa cosa qui. Quindi, così. Però guarda, se mi chiedessero ma perché è importante Stefano Rosso per la nostra musica, io credo che lui sia quasi una rarità, nel senso che è una sintesi assolutamente naturale e perfetta tra la Trastevere che c'era prima, di quando lui era piccolo, quindi le osterie, gli stornelli, eccetera, eccetera, e quella che è arrivata negli anni 70, cioè i capelloni, le droghe, i movimenti di liberazione, la donna, le cose che lì intorno al Trastevere c'era anche una famosissima, c'è anche tutt'oggi un famoso centro del femminismo italiano. A Trastevere c'è stata la prima comune di Roma, per cui era un posto dove addirittura la sera non entrava neanche la polizia, cioè posti incredibili. Quindi Stefano Rosso si innamorò del finger picking, quindi delle tecniche chitarristiche dei folk singer. Era un vero proletario, nel senso che lui amava fare questa battuta. Poi ci fu il boom economico e finalmente diventammo poveri, no? Cioè, per dire come eravamo prima, ancora peggio, no? E quindi aveva tutti gli elementi della propria storia e della propria formazione musicale per mettere insieme queste storie un po' freak, un po' di protesta e un po' ovviamente così narrative di quella realtà lì. E la speranza fugge via, che cosa resta? Chi lo sa? Restiamo noi con gli occhi stanchi, vent'anni appena è già così, cadere sempre a mani avanti. Proletariato, capitalismo, multinazionali sono termini e concetti che si trovano spesso nelle sue canzoni e intanto il sole si nasconde. Scavalca tutta la città dietro una multinazionale, fa l'occhiolino, se ne va e poi in pane e latte lui da proletario dice no, ma anch'io, scherzando, dice la domenica mangiare fuori e chi mi sorpassa le corna farò, diventerò come loro. Sono tutti concetti, testi, riferimenti che parlano di un'altra epoca. Adesso viviamo un'epoca altrettanto difficile ma completamente diversa. Quanto è difficile far percepire, soprattutto ai ragazzi di oggi, l'attualità di messaggi che sono veramente, che raccontano veramente di quel mondo lì, molto diverso dal nostro? Dunque, io credo innanzitutto che queste storie e questi versi raccontano di quando avevamo le pezze sul sedere, come si dice, no? E quindi in realtà le abbiamo ancora oggi, ma siamo diventati ricchi troppo in fretta, la nostra storia è una storia giovane, quindi questo arricchimento che è venuto, che viene raccontato come desiderio in pane e latte, non è una cosa che è stata accompagnata anche da una crescita di coscienza, insomma, per cui è come se noi fossimo diventati ricchi senza potercelo permettere. Ecco. In qualche modo i giovani di oggi, secondo me, da un disco di questo tipo, io ce l'ho scritto anche dentro nelle note di copertina, ho scritto che una cosa magari un po' presuntuosa e megalomane, ma che mi piacerebbe, che come è successo a me quando avevo 20 anni, sentendo una musica del genere venisse la voglia di imbracciare una chitarra e di andare a scoprire che cos'è la musica in termini di socialità, di comunicazione, dello stare insieme, come alla fine ti educa. Quindi inevitabilmente, io so di essere un po' un sognatore quando dico queste cose, ma credo che la musica sia portatrice di alcuni valori umani. Io non ho mai suonato con qualcuno che non ritenessi degno di stima, non so come dire, questa cosa ancora oggi è così, ancora la faccio, costa qualcosa, ma insomma è così. Comunque, ecco, fondamentalmente io penso che questa musica qui sia un po' quella che racconta l'Italia, quella vera, insomma, ecco. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Torniamo insieme ad Andrea Tarquini e al suo tributo a Stefano Rosso nella seconda parte del nostro 140 caratteri. La musica dovrebbe avere anche questo compito, no? Che non è in contrasto con compiti di intrattenimento. La libertà di un artista dovrebbe essere quella di dire un po' tutto quello che gli passa per la testa. Diciamo che, ecco, in forme nuove se ne vede poco, no? Noi grosso modo con un disco così siamo anche andati sul sicuro, perché ovviamente è un qualcosa di già conosciuto, no? Non ti nascondo che anch'io avrei difficoltà oggi a scrivere qualcosa sul presente. Sento che ce n'è la necessità. Ma per esempio una cosa che dico molto spesso quando incontro dei ventenni, e guarda che ce ne sono molti appassionati di cantautorato anni 70 eccetera, se sono appassionati e suonano, io gli dico sempre: non fate l'errore di fare delle canzoncine alla maniera di, nel senso che se tu pensi che quel cantautorato, a mio modo di vedere, vale per l'Italia un po' come il neorealismo, insomma sono stati artisti che hanno aperto strade nuove, coscienze, c'è bisogno di un'altra cosa così, di quella portata, e che non può per forza di cose partire da uno scimmiottamento di quella storia. Si possono fare delle citazioni, no? Io, perché alla fine dopo tanti anni voglio bene a De Gregori, perché ti può piacere o non ti può piacere, ma è cambiato, ha continuato a cercare, no? E ecco, se domani uscisse un disco che un po' scimmiotta quelle cose lì, insomma, non avrebbe senso. Mi ricordo un pugno d'anni fa, per lavoro venni su a Milano, e qui dentro m'è rimasta un po', ma che strano. Frequentavo Piazza Gramsci, lì incontrai Teresa, e si capisce, con l'idea una volta e poi la cosa finisce. Ma finisce a cena con la pizza, a incrociare coi problemi il vino e anche il duomo. Quanto farebbe bene all'Italia di oggi, dei talent show, della discografia disperata, una nuova fucina di talenti, così come fu il Folk Studio? Gli farebbe bene, con il rischio che forse magari andrebbe, poi verrebbe ignorata. Io penso che i talent show e le industrie servano, siano necessari. Il problema è il contenuto, e il problema è che non c'è una classe dirigente che traccia una strada. Perché l'Italia non c'ha una classe dirigente in nulla, né nella TV, né nella musica, né niente, e quindi questo passa al convento, ogni tanto arriva qualcuno che ha delle buone idee, e se ha fortuna magari passa. Però ecco, siamo in un periodo buio, diciamo. L'ultima domanda, che poteva anche essere la prima, hai evitato accuratamente la canzone più nota di Stefano Rosso. E non, sicuramente non è un caso. Dunque, tanto per cominciare, parliamo di una canzone che prima di tutto è vittima di un equivoco, nel senso che sì, contiene quel ritornello ammiccante, che bello, due amici, una chitarra e uno spinello, però la storia in realtà non è un'incitazione all'uso di droghe leggere, ma è una critica a una certa ipocrisia. Se si legge bene la storiella che racconta la canzone, questo è. Poi fondamentalmente ci sono, è la canzone già più, come si dice, coverata, insomma, più cantata da altri, e questo già è e poi c'è anche un fatto di genere, nel senso, rifare quella canzone alla fine, insomma, è una canzone meno autonoma delle altre, secondo me. Tu non hai tante chance di farla in maniera diversa. Però ecco, io credo che Stefano Rosso sia anche altre cose. Abbiamo messo una canzone chitarra e voce, quasi tutta chitarra e voce, perché Stefano Rosso nel suo secondo periodo artistico dopo la RCA, quando il suo innamoramento per la canzone americana diventò molto più forte, sperimentò diverse volte questo genere di approccio alla canzone, e questo era fondamentale che venisse raccontato. Fondamentalmente, ecco, io credo che in questo modo abbiamo raccontato Stefano Rosso in maniera più ampia di quello che i classici possono fare. Via Vigevano, Milano. Ha un nuovo nome, un nuovo singolo, Camelie e Margherite, con un video persino su Playboy. E dopo l'estate, un album, Chiara, Candra, Canzian. Un po' come quando una donna si taglia i capelli, c'è un cambiamento. Allora, ho aggiunto Candra per sottolineare una maturazione che c'è stata nel mio percorso musicale, nella mia vita, nel mio modo di intendere la musica. Nell'ultimo anno ho fatto questa grande ricerca sul mio progetto, sia a livello musicale che di testi, e sono cambiate tante cose. La musica è più raffinata, ma allo stesso tempo più immediata e commerciale, fra mille virgolette. È di grande qualità armonicamente, che prima non lo fosse, ma in questo modo lo è più in maniera spontanea, perché mi viene proprio naturale farlo. Così i testi raccontano la mia intimità, le mie esperienze, ma in maniera, secondo me, molto diretta, figurativa in qualche modo, quindi stimola le immagini, l'immaginazione delle persone. E che altro? C'è stato anche un cambiamento a livello di immagine, più retro, più curata in ogni suo dettaglio, quindi diciamo che è tutto un nuovo percorso che va a colmarsi con anche questa aggiunta del nome, che ha un significato chiaramente, significa luna brillante in sanscrito. Io sono molto legata alla luna, alla spiritualità, all'esoterismo, sono tutte cose che mi interessano tantissimo. E inizia come il mio cognome, nel mezzo ci sono le iniziali dei miei genitori, quindi insomma tutto tornava in qualche modo. Il tuo progetto inizia, parte con un singolo, parte con un video, anche lì molto particolare. Allora, il singolo l'ho scelto perché è quello che meglio rappresenta poi tutto il disco e tutto questo nuovo progetto. Ha sonorità retro, è fresco, frizzante, ma anche di qualità. Così il video ho deciso di farlo con un mio carissimo amico alla regia e un mio carissimo amico come coprotagonista, l'ha girato Tiziano Russo, che è anche il regista dei Negramaro, molto bravo, siamo amici da tempo. E il coprotagonista è Francesco Facchinetti, tutti sappiamo che siamo particolarmente legati in un modo o nell'altro, ed è appunto, come dicevi tu, quasi cinematografico, c'è una fotografia molto bella, molto curata, tutto nel dettaglio, così come la musica. Io sono in lingerie vintage anche lì, quindi sensuale ma assolutamente elegante, senza mai essere volgare, ci mancherebbe altro. E poi il fatto che ci sia Francesco con me sdrammatizza un po' la questione, perché è chiaro che non siamo amanti, insomma, ecco, anzi ci veniva da ridere tantissime volte, però nel video è molto carina questa cosa, traspare l'affetto, secondo me. ragazza dalla creatività debordante che deve disperdersi in tanti progetti, altrimenti potrebbe scoppiare, perché suoni, canti, componi, cucini, disegni anche, tatui, fai un sacco di cose. Tantissime cose, infatti impazzirò prima o poi perché non capisco più cosa sono principalmente. Ogni tanto devo ricordarmi che sono cantautrice, per esempio adesso è una settimana che lavoro come chef, tant'è che quando esco da questo ristorante alle 2 di notte e vado a casa, devo suonare, non dormo. Perché devo suonare e buttare giù quello che ho preso dalla gente durante la giornata. È veramente fantastico, bellissimo. Cosa succederà dopo il singolo, quindi dopo l'estate? Perché più o meno a ottobre ci sarà l'uscita? Sì, esatto, dopo l'estate, ottobre-novembre, ci sarà l'uscita del disco. Da lì partirà il tour nei club, nei teatrini, sarà la presentazione di questo nuovo lavoro che è molto bello, suonato live, sarà una tournée particolare con dei polistrumentisti, quindi ci sarà un interscambio fra gli strumenti, è tutto in fase di studio e di preparazione, stiamo anche cercando di avere una piccola scenografia fissa da portare in giro, poche cose ma magari d'effetto, no? Basta veramente poco a volte. Quindi insomma è tutto in fase di elaborazione, work in progress. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. 140 caratteri torna ogni domenica alle 8:30 e 19:30.